Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. C'è Fabio che dice buu, noi svolgiamo anche questa funzione sociale di aiutare alcune persone che non sanno che cosa fare, che quindi passano il tempo a sfogarsi sui social. Siamo felicissimi di poter dare una mano a tutti costoro. Quindi Renzi col suo Matteo risponde, che ormai è un'abitudine che è diventata quasi settimanale, no? Che multitasking risponde attraverso Twitter, Facebook, in video, con la voce, eccetera, è diventata anche una funzione sociale, dice Renzi, perché agli insulti che gli arrivano, i bu, eccetera, dice, risponde così, così li lasciamo anche sfogare. Ma voi invece sfogate questa sera le vostre opinioni su un tema che tra poco vi sottoporrò qui a Effetto Notte. Naturalmente prima vi riassumo la giornata, poi cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Tra i vari argomenti torneremo sulla questione Brennero, perché oggi c'è stato l'incontro, il vertice a Roma, tra il ministro dell'interno Alfano e il suo omologo austriaco, per capire insomma se ci può essere una mediazione su questo muro, su questo reticolato o questa barriera, come la vogliamo chiamare, che l'Austria ha annunciato di voler fare al Brennero per frenare il flusso migratorio. Capiremo poi come è andata questo vertice di oggi. Poi ci occuperemo anche del blitz antiterrorismo in Lombardia. Sono stati arrestati dei presunti terroristi che avevano avuto anche indicazione dal sedicente califfato, direttamente dall'ISIS, di fare degli attentati in Italia. Quindi aveva ragione il capo dell'intelligence americana, che qualche giorno fa, ne abbiamo parlato qui Effetto Notte, diceva: attenzione, c'è anche un rischio di attacchi terroristici in Italia. Ne parleremo con un esperto. E poi ci occuperemo anche del concorsone per i professori precari che è iniziato oggi, una giornata un po' diciamo campale, un po' difficile. E poi soprattutto saremo sulla politica, perché oggi c'è stato, come vogliamo definirlo, un colpo di scena, un cambio di direzione, una virata di Berlusconi. Qualcuno se l'aspettava, qualcuno no. A Roma questa vicenda, questa telenovela senza fine ha avuto un'ulteriore puntata, un'ulteriore tappa, che è quella di oggi, in cui Berlusconi ha mollato il candidato Bertolaso per il Campidoglio, che aveva sostenuto a oltranza fino adesso, e ha scelto Marchini. Qualcuno lo ha lodato, qualcun altro si è preoccupato, altri lo hanno criticato, l'ira naturalmente di Salvini e Meloni. Ne parleremo ampiamente e proprio su questo vi chiedo la vostra opinione. Potete scrivere attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure con i messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Per SMS, WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte, per dire se secondo voi è stata una scelta opportuna questa di Berlusconi, o comunque come la commentate, questo di avere liquidato da una parte Bertolaso e avere quindi scelto definitivamente Marchini. Mentre scrivete le vostre opinioni, io vi riassumo la giornata. Immigrazione Brennero, nel vertice col suo omologo austriaco Alfano, dice: abbiamo evitato fino ad ora una crisi e la chiusura del Brennero. E l'Austria commenta: i nostri sono solo controlli, ma l'Unione Europea si prenda le sue responsabilità. Terrorismo a Roma, nel mirino dei terroristi arrestati in Lombardia, gli ordini di attaccare in arrivo dai territori dell'ISIS. Siria, esplodono bombe sull'ospedale, ucciso l'ultimo pediatra di Aleppo. Elezioni amministrative a Roma, Berlusconi congeda Bertolaso e sceglie Marchini, ira di Meloni e Salvini, anche Storace pensa a un passo indietro. Il fisco cambia, stop a controlli per piccole cifre o piccoli errori, maggiore collaborazione con i contribuenti, lotta dura alle frodi. Scuola, concorsone al via per i professori precari, intanto gli insegnanti si preparano allo sciopero. Partiamo quindi dal Brennero e dal vertice a Roma su questo tema e confine caldo, anche se c'era la neve, tra il ministro dell'interno Alfano e il ministro dell'interno austriaco. Dopo il piano di Vienna è l'Italia ad annunciare il suo. L'Italia ribadisce il suo no al ripristino dei controlli al Brennero, ma dopo le tensioni prova a cercare un dialogo con l'Austria. Per ora abbiamo evitato una crisi e la chiusura del valico, ma bisognerà lavorarci sopra perché la cosa sia definitiva, ha fatto sapere il ministro dell'interno Alfano dopo l'incontro a Roma con il suo omologo austriaco Sobotka. Abbiamo detto no ai controlli della polizia austriaca sui treni in territorio italiano, a farli saranno le nostre forze dell'ordine, ha spiegato il responsabile del Viminale. Il nostro itinerario, quello dei treni e anche quello stradale che porta al Brennero, potrà contare su un servizio rafforzato dal punto di vista della presenza delle forze dell'ordine. Sobotka, dal canto suo, ha spiegato che l'Austria continuerà comunque a costruire la sua barriera al Brennero. Lo farà per fronteggiare eventuali emergenze che però non ci saranno, ha assicurato Alfano, secondo il quale il governo di Vienna si è detto pronto a sostenere le proposte italiane sul Migration Compact, sugli hotspot in mare e sulla necessità di arrivare ad un accordo con la Libia. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E sul fronte libico però non c'è nessun intervento italiano per ora. L'Italia non ha nessuna intenzione di inviare forze militari in Libia se non ci sarà una stabilizzazione e una richiesta dal governo di al-Sarraj. A chiarire ancora una volta la posizione di Palazzo Chigi è il ministro degli esteri Gentiloni. Noi daremo questo contributo sulla base delle richieste del governo libico e di una validazione delle Nazioni Unite. Queste richieste per ora non ci sono state. Se ci saranno, ha continuato, si potrà parlare di missioni, ma avremo bisogno di tutto il Parlamento e di una cornice internazionale. Dunque per ora nessun invio di soldati, neanche a protezione dei pozzi petroliferi, ma l'Italia, che sulla Libia è un paese determinante, lavorerà nelle prossime settimane con gli Stati Uniti per rilanciare il sostegno al governo di Sarraj. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo sul fronte estero con la Siria. Il capo degli aiuti umanitari dell'ONU, Stephen O'Brien, ha allertato il Consiglio di sicurezza su un nuovo serio deterioramento della situazione umanitaria in Siria. La situazione ad Aleppo è catastrofica, ha spiegato ai 15 paesi. Al termine della riunione del Consiglio, l'ambasciatore neozelandese ha affermato che si sta lavorando ad una risoluzione sugli attacchi alle strutture sanitarie, che spera verrà adottata all'unanimità dall'organo ONU la prossima settimana. Perché ad Aleppo, infatti, un ospedale supportato da Medici Senza Frontiere è stato distrutto oggi in un raid aereo dopo l'interruzione della tregua entrata in vigore il 27 febbraio. La situazione è catastrofica anche perché nella città vivono ancora 250.000 persone sotto assedio, così racconta il presidente di Medici Senza Frontiere, Loris De Filippi, al microfono di Livia Zancaner. L'attacco è stato brutale e ha distrutto completamente l'ospedale. È un ospedale, quello di Al-Quds, che noi sosteniamo dal 2012 e che aveva sicuramente, era il punto di referenza per tutti i casi pediatrici in una vasta zona di Aleppo. Quindi per noi è un disastro. Era un ospedale non enorme, aveva 34 posti letto. Quante persone c'erano all'interno? È difficile dirlo. Per ora noi stiamo contando 14 corpi con la presenza di almeno 3 medici in questo momento. Quindi sicuramente quando le macerie saranno rimosse troveremo ancora persone, purtroppo bambini, dentro la struttura, però per il momento, diciamo, ufficialmente queste sono le cifre. Sono tutte persone del luogo? Sono tutti siriani della zona di Aleppo, diciamo, e purtroppo tra i 3 medici morti c'è anche l'unico pediatra che rimaneva in una vasta zona di Aleppo, e quindi questa è una notizia particolarmente tragica. Parliamo di terrorismo. L'ambasciata di Israele a Roma era l'obiettivo del presunto terrorista arrestato questa mattina insieme alla moglie nell'operazione antiterrorismo scattata in Lombardia. Gli ordini arrivavano direttamente dal sedicente califfato e ne torneremo a parlare qui nel corso di Effetto Notte. Siamo alla politica italiana, elezioni amministrative a Roma. Vi dicevo che Berlusconi ha congedato Bertolaso scegliendo Marchini, provocando l'ira di Giorgia Meloni, del leader della Lega Salvini. Anche Storace pensa a questo punto un passo indietro. Critici su questa scelta il PD e il Movimento 5 Stelle. E tra poco ce ne occuperemo ampiamente. Proprio su questo tema vi chiedo, secondo voi Berlusconi, lasciando da parte a questo punto Bertolaso, che aveva difeso come candidato ufficiale sino a questo punto, e scegliendo oggi Marchini, ha fatto secondo voi la scelta opportuna? Secondo voi ha più opportunità in questo modo, più chance il centrodestra di arrivare quantomeno al ballottaggio, se non di vincere? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, scegliete voi se commentare sull'una o sull'altra, se ritenete che questa sia stata una scelta opportuna e comunque come la ritenete, insomma, di là che sia giusta o sbagliata. E poi c'è un Matteo Renzi a tutto campo che ha parlato in diretta web nel suo appunto Matteo risponde. Siamo in prima linea contro la corruzione, ha sottolineato dopo l'appello di questa mattina del capo dello Stato. Serve un'alleanza di tutte le forze sane. La contrapposizione indebolisce tutti, aveva detto così Mattarella. Dalla corruzione alle unioni civili, dalle partite IVA alle riforme, Matteo Renzi a tutto campo nel consueto appuntamento con gli utenti dei social networks. Ogni volta che emerge una storia di corruzione io mi indigno, dice il premier, ma attenzione a sparare nel mucchio, altrimenti i ladri la fanno franca. C'è bisogno di fare di più, ci siamo. Non è mai troppo quello che si fa per combattere la corruzione. Quindi pronti a dare una mano, ma contemporaneamente guai a generalizzare, perché chi generalizza paradossalmente fa il gioco di chi ruba. L'appuntamento è un'occasione anche per parlare di politica fiscale. Abbassare l'IVA in questo momento non è la priorità. Se ci sono risorse, dice Renzi, le mettiamo in mano ai lavoratori e agli imprenditori per consentire loro di avere sconti fiscali se investono sulla propria azienda. Il premier annuncia poi che tra maggio e giugno ci sarà un provvedimento a sostegno delle partite IVA e poi il capitolo unioni civili e la probabile fiducia. Maggio ci sarà, inizierà il voto sulle unioni civili, sì, è vero. Se mettiamo la fiducia, cosa che non è sicura ma è possibile. Spazio infine al tema delle riforme. Non sono aggrappato alla sedia, dice Renzi, se perdo il referendum vado via. Se perdi vuol dire che hai sbagliato tu, e quindi la conseguenza di andare a casa sta nella logica dei fatti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E siamo all'economia. Progressi ma anche preoccupazioni sui conti pubblici italiani, così ha detto il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis a Roma. L'Europa accoglie le riforme dell'Italia come un fatto importante, ma è anche importante che l'Italia continui con politiche ambiziose e rispetti l'agenda. Lo sforzo del governo deve proseguire. Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis, in visita a Roma alla vigilia di un mese cruciale sul fronte conti pubblici, non scioglie la riserva sul giudizio che Bruxelles darà a metà maggio sul DEF, ma fornisce indicazioni importanti. As regards fiscal developments, in primis sul deficit, la Commissione vede progressi ma nutre anche preoccupazioni sui conti. Il deficit è in una traiettoria di calo, ma ci sono deviazioni sia sul percorso di riduzione del disavanzo strutturale sia sulla regola del debito, anche perché, ricorda, l'Italia è il secondo paese in Europa per peso del debito. E lancia una frecciata: gli obiettivi inseriti nel DEF sono meno ambiziosi di quelli di un anno fa. Dombrovskis tocca il controverso tema della flessibilità, ribadendo quanto detto una settimana fa a Radio 24. Quest'anno l'Italia avrà un limite dello 0,75% del PIL, questo sarà il tetto. E aggiunge: Bruxelles valuterà le spese ulteriori che Roma sta affrontando per far fronte all'emergenza rifugiati. L'orientamento è quello di una valutazione ex post, guardando le spese effettive sostenute. Più in generale, Dombrovskis definisce la ripresa in Italia come piuttosto sommessa. Infine, nonostante la sua fama di falco del rigore, spezza una lancia: Roma è un po' sopra la media europea nel rispetto delle raccomandazioni di Bruxelles. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora in Francia, Salah Abdeslam, il terrorista superstite degli attacchi del 13 novembre a Parigi, che sapete ieri è stato estradato dal Belgio in Francia, è stato fischiato questa mattina da altri detenuti nel carcere di Fleury-Mérogis, dove è rinchiuso da ieri. Secondo un sindacalista del penitenziario, a prendere di mira Salah con un bu e fischi generali sono stati altri detenuti radicalizzati islamisti che gli rimproveravano di non essere andato fino in fondo, di non essersi fatto esplodere. E poi Brasile: dall'inizio del mese la polizia brasiliana ha ucciso almeno 11 persone nelle favelas di Rio de Janeiro, i cui abitanti stanno vivendo nel terrore e quanto ha denunciato Amnesty International a 100 giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Dagli Stati Uniti, in Tennessee, il governatore repubblicano del Tennessee ha firmato la contestata legge anti-gay, un provvedimento che permette a consulenti medici e terapisti di rifiutare i clienti sulla base di convinzioni religiose e personali del professionista. In pratica, la legge consentirà loro di negare i propri servizi a gay, lesbiche, bisessuali e transgender. Nuova giornata di manifestazioni in Francia, decine e decine di fermi nel paese per gli scontri e le violenze a margine della quarta giornata di mobilitazione contro la riforma del codice del lavoro, una specie di Jobs Act alla francese, osteggiata da studenti, sindacati e lavoratori. Secondo il principale sindacato di Francia, nella capitale hanno sfilato 60.000 persone, altre parlano di 50.000 persone in provincia. Torniamo in Italia per parlare di fisco, perché il fisco dovrà affinare sempre più la qualità dei controlli, evitando lo spreco di energie in contestazioni puramente formali o di ammontare esiguo e concentrandosi piuttosto su concrete e rilevanti situazioni di rischio. Questo è un passaggio nell'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate, che ridisegnerà i controlli con una vera e propria rivoluzione. Quindi basta caccia agli errori e recuperi di basso importo, il cui livello sarà valutato a seconda delle diverse situazioni. E per quanto riguarda la RAI, il Consiglio Agicom invia un fermo richiamo per la puntata di Porta a Porta che lo scorso 6 aprile, sapete, ha fatto discutere tanto, dove non ci sarebbe stato, secondo l'Agicom, un adeguato contraddittorio nei confronti dell'intervistato, il figlio del boss Totoreina. Ma Vespa replica: mai così severi sono stati, e rivendica, rispettato ancora una volta, la deontologia professionale e la dignità della persona con lo scrupolo. Scuola, è partito oggi il concorsone per i professori precari, intanto gli insegnanti si preparano a uno sciopero generale, ma di questo parliamo più tardi. E per chiudere, la novità sulla morte di Prince, la pop star Prince aveva l'AIDS e si stava preparando a morire. Questa è la rivelazione shock a pochi giorni dalla morte, arriva dalla stampa americana. Era totalmente carente di ferro, racconta la fonte anonima, ed era spesso debolissimo e disorientato. Bene, a questo punto avete il quadro della giornata. Tra poco allora cominceremo a sviscerare alcuni argomenti in particolare. Quindi rinnovo l'input che vi ho lanciato questa sera. Il tema è quello della scelta di Berlusconi. Improvvisamente questo cambio di direzione, lascia Bertolaso come candidato al Campidoglio e sceglie Marchini. Come commentate questa scelta di Berlusconi? 349-238-6666 è il numero per WhatsApp, per SMS, oppure pagina Facebook di Effetto Note. Per esempio, Maria Teresa scrive: Berlusconi si è rivelato il solito personaggio poco serio, per non dire altro, perché appoggiare Bertolaso per poi scaricarlo in malo modo? Questa è davvero la fine della destra, dice Maria Teresa. Marco da Bergamo: sulla scelta di Berlusconi nessuna sorpresa, quanto a coerenza e serietà non si smentisce mai. E poi un altro ascoltatore: Berlusconi prima lo candida, poi lo scarica, per me Bertolaso sarebbe un bravo sindaco. Continuate, ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, tra poco cominceremo ad affrontare i vari argomenti, partiremo dal Brennero e poi un'ampia pagina di politica e poi questo blitz antiterrorismo in Lombardia. Quindi ancora i vostri messaggi sulla scelta di Berlusconi di congedare Bertolaso e di scegliere Marchini. Oggi è stata questa ennesima tappa di questa vicenda del centrodestra a Roma. Marco da Ferrara scrive: e dove sta la novità di Berlusconi? Ha cambiato Bertolaso con Marchini, così come ha cambiato Mihajlovic con Brocchi, quindi fa un paragone calcistico, e il risultato sarà uguale, fuori dai giochi che contano, secondo Marco. Quindi ce l'ha su entrambi i fronti. 349-238-6666 per i WhatsApp e gli SMS, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricordo intanto quali sono le notizie principali. Berlusconi punta su Marchini, terremoto nel centrodestra, rabbia di Salvini e Meloni, i centristi dicono è una decisione epocale. Scoperta una rete di jihad in Lombardia, nel mirino il Vaticano e l'ambasciata di Israele, arresti tra Piemonte e Lombardia, la Brianza sarebbe la culla dei fighters, dei foreign fighters, quindi di coloro che vanno a combattere da paesi stranieri in Siria e in Iraq. Brennero: l'Unione Europea esprime grave preoccupazione, Juncker, presidente della Commissione, vedrà Renzi, e intanto il ministro dell'Interno austriaco dice: i nostri sono solo controlli, non ci sarà un muro, noi rispettiamo le regole. Mattarella che parla della necessità contro la corruzione di un'alleanza, stop ai conflitti, Renzi dice ci sono già regole dure ma faremo di più nei confronti della corruzione. E poi scuola, concorsone al via, voci di caos, di cose che non sono andate nel modo corretto, poi parleremo anche di questo. Intanto si profila uno sciopero generale degli insegnanti e poi questo doppio richiamo alla RAI su Rina Junior e sul referendum relativo alle trivelle. E siamo quindi al tema della crisi dei migranti e del Brennero. Ieri l'Austria, ne abbiamo parlato qui a Effetto Notte, in una conferenza stampa ha annunciato quali saranno le misure che prenderà sul passo del Brennero al confine con l'Italia per arginare il flusso dei migranti. Si è parlato di un reticolato di cui si sono poste per il momento solo le basi, di controlli che propone l'Austria di fare anche sui treni ancora in territorio italiano che stanno andando in Austria. E oggi c'è stato questo vertice appunto tra il ministro dell'Interno Alfano e il suo omologo austriaco Sobotka. Abbiamo evitato fino ad ora una crisi e la chiusura del Brennero, dice Alfano, ma sentiamolo dalla sua viva voce. Abbiamo evitato fino ad ora l'esplodere di una crisi e la chiusura del passo del Brennero. È definitivo? Bisogna lavorarci su. Perché? Perché starà a noi e alla nostra efficienza che fin qui c'è stata evitare che ci sia quel transito. E al tempo stesso sarà da parte austriaca la responsabilità di essere ragionevoli rispetto alla inesistenza delle condizioni per organizzare un blocco che farebbe un enorme danno al turismo italiano, al turismo austriaco, al nostro import-export e anche al transito delle persone per ragioni di lavoro. E poi dicevamo, ieri l'Austria ha presentato il proprio piano, oggi l'Italia il proprio, il famoso Migration Compact. Sentiamo di nuovo un passaggio di Alfano su questo. Abbiamo ottenuto l'ok dell'Austria sul nostro pacchetto immigrazione Migration Compact che porteremo al vertice dei capi di Stato e di Governo. Quindi l'Austria sostiene il piano italiano sulle migrazioni. Questa mi sembra una notizia molto importante. Viene detto comunque noi rispettiamo le regole, rispondendo anche a Renzi che ha detto in questi giorni l'Austria rischia di violare le regole europee, l'accordo di Schengen, però ha detto Vienna l'Unione Europea si prenda le proprie responsabilità. Ne parliamo con Antonio Villafranca, responsabile del programma Europa dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Villafranca, bentornato. Grazie, buonasera a voi. Quindi si è trovata questa mediazione a questo punto? Che impressione ne ha avuto da anche le dichiarazioni di Alfano? Che cosa ha portato questo vertice? La cosa positiva è che sono stati stemperati i toni. Questo è sicuramente il risultato più importante, perché veramente nei giorni scorsi sia da parte italiana che da parte austriaca i toni erano stati alti ed erano legati da parte austriaca essenzialmente a un momento politico molto delicato. Sappiamo che ci sono state le elezioni, il primo turno per appunto il nuovo presidente, c'è stato un risultato clamoroso in Austria, mai il partito di estrema destra aveva avuto così tanti voti da far passare addirittura al secondo turno il proprio candidato, e l'altro candidato che andrà al secondo turno è dei Verdi. Nessuno dei due candidati, mai un Verde, neanche un Verde era mai andato al secondo turno, nessuno dei due partiti che fanno parte della coalizione di governi, di governo, è riuscito appunto a far passare un proprio candidato. E quindi è evidente che sia i socialdemocratici che i conservatori, i due partiti appunto al governo, stanno cercando di far passare il messaggio che anche loro sanno gestire appunto le questioni migratorie. Ovviamente un messaggio comunque sbagliato, perché arriva in un momento in cui l'Italia veramente ha fatto molto per controllare appunto i migranti che arrivano nel nostro paese. Non dimentichiamo che fino a un anno fa noi soltanto una piccola percentuale in realtà li identificavamo, perché essenzialmente poi molti andavano in effetti verso il nord Europa. Adesso la stragrande maggioranza sono controllati, quindi la decisione austriaca arriva veramente in un momento sbagliato per l'Italia. Quindi sembra che per il momento forse una mediazione ci sia stata, probabilmente Villafranca potrà dipendere anche dal risultato del secondo turno delle presidenziali in Austria, quello che succederà? Questo è sicuro, adesso bisognerà vedere a maggio quando ci sarà il secondo turno, se veramente appunto il candidato di estrema destra ce la farà o se tutti gli altri partiti, soprattutto i partiti al governo, con appunto questa diciamo linea dura che stanno seguendo, riusciranno comunque a far passare il messaggio che sono in grado di gestire la situazione. Un'altra cosa preoccupante, forse è passata un po' non in maniera molto chiara, che praticamente 24 ore fa il Parlamento austriaco ha passato un pacchetto di misure che rendono più difficile il diritto d'asilo in Austria, hanno ridotto il periodo peraltro a 3 anni e in casi eccezionali hanno praticamente reso possibile la creazione di recinzioni come quelle al Brennero. Quindi da una parte mediazioni, dall'altra però l'Austria procede in questa direzione. Aspettiamo, vediamo questo secondo turno. Lo può fare peraltro forse per una cosa che va chiarita. L'Austria ha già sospeso Schengen e sappiamo già che ad esempio i controlli li fa da molti mesi nel confine con la Germania, anche sui treni che arrivano dalla Germania, e lo può fare fino a maggio. Il problema è che se continua anche dopo maggio si pone al di fuori di quelli che sono gli accordi di Schengen, quindi se continua veramente poi si crea un problema proprio per la tenuta dell'accordo di Schengen. Grazie Antonio Villafranca dell'ISPI. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. E vedo man mano scorrere i vostri messaggi, sia al 349-238-6666 che sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito della scelta di Berlusconi. Ilaria scrive: stando a sondaggi di qualche tempo fa, sembrerebbe una scelta azzeccata quella di Marchini. Tra l'altro, il personaggio è romano, simpatico e dotato di una buona comunicativa. Tuttavia, io vorrei i programmi prima dei candidati, ma mi rendo conto che sono ferma a diverse ere elettorali fa. Anselmo: penso che Berlusconi abbia sempre cavalcato il cavallo vincente e pensa di continuare a farlo, ma deve rassegnarsi, perché il sindaco di Roma sarà Virginia Raggi, donna onesta e preparata, ed è ciò che si merita la capitale d'Italia. Marco dice: devono andare a casa, che i programmi hanno questi partiti che hanno distrutto tutto, il Movimento 5 Stelle, a veri programmi stilati con i cittadini. Vincenzo: Bertolaso presenterà un conto salato a Berlusconi, non avendo fatto nessuna richiesta per la candidatura a sindaco. Beh, anche questa cosa sarà un po' da vedere, qualcosa gli avrà promesso, immaginiamo, Berlusconi. Poi ancora altri messaggi tra il 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte. È l'unica scelta giusta e razionale, dice un altro ascoltatore, basta estremisti e populisti. E quindi siamo arrivati a quest'altra tappa, diciamo ultima puntata della vincente telenovela romana del centrodestra, drappello di candidati messi in campo. Il centrodestra è giunto attraverso molti travagli interni, accordi su cambi di direzione, gaffe, colpi di scena, tentennamenti, inviti all'unità, attacchi reciproci, eccetera. Si restringe questo drappello che era stato messo in campo, erano un po' di candidati, insomma, sparsi del centrodestra. Perché? Perché oggi il leader di Forza Italia, come vi dicevo, Berlusconi, ha messo da parte, ha congedato Bertolaso, Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, che finora aveva difeso ad oltranza come suo candidato ufficiale al Campidoglio, diciamo duellando con Meloni e Salvini. Sembrava che a un certo punto potesse convergere verso Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, e poi invece ha scelto Marchini. L'accordo ufficiale è stato sancito questa mattina, e quindi il neoliquidato Bertolaso come ha commentato? Che cosa ha detto? Ha detto: ho deciso di sedermi in panchina per consentire alle forze che si riconoscono nei principi del liberalismo e del cattolicesimo di unire i loro sforzi e partecipare alla competizione elettorale puntando a vincere e non solo a testimoniare. Non so se con questo voleva dire che la sua era solo testimonianza e non possibilità di vittoria. Lo chiedo a Salvatore Merlo, giornalista del Foglio. Buonasera Salvatore. Eccomi, buonasera. Autore di Fummo giovani, soltanto allora la vita spericolata del giovane Montanelli. Che non c'entra niente. Insomma, visto che ci sei e che hai scritto di recente questo libro. Salvatore, quindi, e come commenti questa scelta? È Bertolaso che dice adesso dobbiamo puntare a vincere, non solo a testimoniare liberalismo e cattolicesimo, eccetera eccetera. Per anno che Bertolaso ha messo insieme Marchini e Berlusconi, li ha fatti incontrare mercoledì notte, cioè ieri notte, a Palazzo Grazioli, messi attorno a un tavolo. D'altro canto erano molti giorni che dava questi segnali Bertolaso, non faceva, era uno strano candidato. Aveva parlato anche di larghe intese due o tre giorni fa, quindi un po', diciamo, il dubbio era venuto, intese, no? Poi non faceva che parlare bene di Marchini, ed era molto strano, no? Si candida il sindaco di Roma e parlava bene di un altro. Un po' autolesionista sembrava, sì. No, preferiva, ha capito che non ce l'avrebbe fatta. Marchini gli sembrava una persona per bene, uno che ce la può fare, che non è compromesso con nessuna delle gestioni passate di questa sciagurata, di questa città disgraziata. E è un romano che conosce bene la città e ha sondaggi eccezionali da candidato civico, perché sta con una forchetta che viene data tra il 10 e il 12%, che è tantissimo, senza partiti alle spalle, e quindi è finita così. Dopo mesi di soap opera, diciamo, questa meloneide straordinaria, perché due mesi fa Berlusconi andava da Giorgia Meloni con Salvini, si incontravano, arrivava, si fermava la macchina sotto Palazzo Grazioli, Giorgia scendeva, saliva le scale, quelli si guardavano negli occhi, prendevano un caffè, ripetevano cose che avevano già detto, già sentito, e lei diceva: non mi voglio candidare. Alla fine fanno tutto questo ricerca di un candidato, trovano Bertolaso, Salvini non piace, piace a Meloni, sì, allora è fatta Bertolaso. A un certo punto Meloni cambia di nuovo idea. Però hai dimenticato, Salvatore, quando la gaffe di Bertolaso, forse per quello che la Meloni si è anche arrabbiata, dicendo: ma donna che... incinta deve pensare a fare la mamma, e poi no. Ma quello è stato dopo la dopo, diceva, già deciso. Ma è stata una gaffe, cioè, senza dubbio. No, sai, voglio dire, lei ha costretto il centrodestra a un gioco zen, diciamo, e parasuicidale per riottenere una candidatura che due mesi fa gli stava andando gratis, quindi insomma un po' strano, e si spiega con un calcolo che è tutto elettorale, che ha a che vedere con il sistema elettorale nazionale, con la futura lista unica che ci dovrà essere del centrodestra e su quanti posti poi si dovrà garantire a Fratelli d'Italia, questo piccolo partitino che non ha a percentuali da 0, in tutta Italia, tranne che a Roma, Roma è forte, e alla fine la candidatura di Meloni, la ragione della candidatura di Meloni si risolve in questo. Ora, che succede? Credo nulla in realtà nei rapporti tra Salvini, Meloni. Beh, sono sembrati molto arrabbiati, almeno così in apparenza. Vogliamo sentire un Salvini, giusto, e poi ritorniamo, Salvatore. Senti. Non ho più tempo di occuparmi di Bertolaso. Stamattina parlavo con i rappresentanti di alcuni comitati di quartiere di Roma. A questo punto noi andiamo al ballottaggio come Lega con la Meloni. Chi vuole si aggiunga, però non abbiamo più tempo da perdere dietro alle bizzarrie di gente come questa. Questo Salvini, poi la Meloni ha detto: in questo modo favoriscono Giachetti, Storace a sua volta, un altro candidato ha pensato di fare un passo indietro anche lui, PD e 5 Stelle sono critici, per esempio Giachetti ironizza e dice: adesso Marchini dovrà cambiare i suoi manifesti visto che c'è scritto liberi dai partiti, e invece poi ha aderito a quello evidentemente di Berlusconi. E Virginia Raggi del 5 Stelle scrive su Twitter: oggi cade anche la maschera di Marchini, da liberi dai partiti alle nozze con Berlusconi. Sono nozze con Berlusconi, il modello è chiaro cos'è, cioè quella stessa cosa che sta succedendo a Milano con Parisi, è lo stesso che è successo a Venezia con Brugnaro, cioè i partiti sono deboli, sostengono un candidato civico che ammaina bandiere, scioglie la destra, scioglie la sinistra e prende voti un po' da tutte le parti, perché questo è Marchini, è un candidato trasversale, è un candidato che piace ai... ora la parola moderati è così brutta, però è l'unica che mi viene in mente, e cioè piace sia alla destra sia alla sinistra, non piace agli estremisti, ecco. Tant'è vero che ci sono dei sondaggi molto interessanti che sostengono che è l'unico che può battere Virginia Raggi al ballottaggio. Così dice anche Piepoli, il sondaggista, dice: con questa scelta ha la possibilità il centrodestra, a questo punto aumenta le sue possibilità di vincere. Cosa rispondi, Salvatore Merlo, ad Alessandro, l'ascoltatore, che scrive: dunque, eccolo qua, spero sia l'inizio della ricostruzione di un centrodestra liberale moderato, non più subalterno a Salvini e Meloni. Mi dai questa risposta? E poi certo, diciamo, se vince, se alla fine di queste, quando finalmente saranno i risultati elettorali, Marchini avrà preso più voti di Giorgia Meloni, è chiaro che l'indirizzo e la linea da prendere non è quella dei toni, diciamo, da Le Pen alla matriciana, ma è quello di trovare un po' di presentabilità politica, ecco, di non fare il balletto tra Mussolini e le barricate del Brennero, no? Alle prossime tappe, allora, di questa vincente avventura, caro Salvatore Merlo. Vincente non è, devo dire. Però, nel senso che ogni volta ce n'è una, in quel senso. Non ci si annoia, diciamo, in questa campagna. Sì, la politica però dovrebbe essere una cosa un po' più seria. Vabbè, c'hai ragione, Salvatore Merlo. Ti ringrazio intanto, Salvatore. Grazie. Merlo del Foglio. Ciao Salvatore, noi ci prendiamo questa breve pausa di creazione. Continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, ma troviamo altro tempo tra poco. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte, perché sapete, da qualsiasi latitudine si ascolta, per avere un quadro complessivo della giornata e poi per l'approfondimento su vari argomenti. Abbiamo appena parlato della politica, del coup de théâtre per qualcuno, invece di una scelta che già era nell'aria, di Berlusconi a Roma come candidato al Campidoglio, non più Bertolaso congedato, ma la scelta che è ricaduta su Marchini. Adesso invece parleremo di questo blitz antiterrorismo nel nord Italia. Vi ricordo però intanto, per i vostri messaggi, sempre il 349-238-6666 e la pagina Facebook di Effetto Notte, appunto sulla scelta di Berlusconi, come la commentate. Marco dice: il Cavaliere è evidentemente ricattato, si rifà anche qualcosa che aveva detto Salvini, che Renzi lo ricatterebbe sulla questione dei diritti TV, insomma questa era stata l'accusa di Salvini. Marco dice: lo voteranno perché è bello Marchini, questo è l'unico senso della scelta di Silvio. Effettivamente è belloccio, poi ognuno deciderà. Paolo dice: ha fatto solo bene. Roberto Floriano dice: sono allo sbando. Luciano scrive: pessima mossa, non sono più coerenti con le loro scelte. Mentre un altro ascoltatore scrive: ancora a cercare candidati e i programmi, a noi cittadini quello interessa. Ah, il vero programma si detta a memoria, non ci crediamo più, dice questo ascoltatore. L'onestà vincerà. Bene, direi di passare al prossimo argomento, ma prima vi ricordo ancora una volta le notizie più importanti. Immigrazione: Brennero nel vertice col suo omologo austriaco Alfano dice: abbiamo evitato fino ad ora una crisi e la chiusura del Brennero. E l'Austria commenta: i nostri sono solo controlli, ma l'Unione Europea si prende le sue responsabilità. Terrorismo: Roma nel mirino di terroristi arrestati in Lombardia, ne parleremo tra pochissimo. Siria: esplodono bombe sull'ospedale, ucciso l'ultimo pediatra di Aleppo. Elezioni amministrative a Roma: Berlusconi congeda Bertolaso e sceglie Marchini. Ira di Meloni e Salvini, e anche Storace pensa al passo indietro. Il fisco cambia: stop ai controlli per piccole cifre o piccoli errori, maggiore collaborazione con i contribuenti, lotta dura alle frodi. Scuola: concorsone al via per i professori precari, intanto gli insegnanti si preparano allo sciopero. Vi dicevo quindi di questo blitz antiterrorismo oggi in Lombardia, in realtà tra Lombardia e Piemonte. Volevano partire una coppia di presunti terroristi per la Jihad nei territori di guerra in Siria e in Iraq, con due figli di 2 e 4 anni, in queste zone di combattimento. Questa coppia di presunti estremisti islamici residenti nella provincia di Lecco è stata arrestata in un'operazione congiunta tra ROS e Digos, condotta in diverse province della Lombardia e del Piemonte, nell'ambito della quale sono state emesse 6 ordinanze di custodia cautelare. L'uomo, Abed Rahim Mutarrik, cittadino italiano di origini marocchine, atleta professionista, viene definito come uno sportivo di qualità, un pugile di kickboxing di alto livello in Italia e all'estero, e aspirava a sistemare la famiglia in Siria per poi compiere qualche azione eclatante e magari farsi saltare in aria a Roma in occasione del giubileo. E in effetti, almeno dalle intercettazioni, risulterebbe che direttamente da gruppi dell'ISIS, dal sedicente califfato, arrivassero indicazioni a colpire soprattutto i pellegrini che partecipano al giubileo, quindi Vaticano, ma anche l'ambasciata di Israele. Ne parliamo con Gianni Cipriani, giornalista di Globalist, scrittore, analista di intelligence, esperto di terrorismo e servizi segreti. Buonasera Cipriani. Buonasera. Qualche giorno fa, ne abbiamo parlato anche qui Effetto Notte, il numero uno dell'intelligence americana aveva detto: adesso i rischi di cellule dormienti e quindi di attacchi terroristici non ci sono più in Francia e Belgio, ma anche Germania, Gran Bretagna e Italia. Quindi dopo questi arresti bisogna pensare che effettivamente il rischio c'è anche concreto in Italia? Sicuramente un rischio c'è. Ora, in questo caso non parlerei di cellule dormienti, perché qui siamo di fronte a una modalità tipica, nel senso che lo Stato Islamico, nella sua propaganda, spesso anche nei video e nei proclami, invita le persone, i credenti, i veri credenti, a andare a vivere nella terra di Allah, un po' come era accaduto con Fatima, l'altra italiana, no? che è andata, che in quelle famose intercettazioni invitava i genitori, tutta, perché era famiglia, dovere di ogni, no? Di ogni musulmano andare lì. Per cui, diciamo, c'è questo primo elemento, che è quello di andare a vivere in quelle terre. Proprio perché lì c'è il vero Islam, c'è il califfato, appunto, che è, appunto, dal loro punto di vista è il vero Islam. Il problema è non solo quando vanno, perché è chiaro che poi gli uomini vanno anche a combattere. Il problema è quello che abbiamo sempre detto, cioè il rischio dei famosi foreign fighter di ritorno, cioè di coloro che hanno fatto in quelle terre una palestra, un terribile e temibile addestramento all'uso delle armi, e che poi tornano, vogliono tornare in Europa. E già abbiamo visto che questo che c'è stato a Parigi, a Bruxelles, e queste dinamiche ci sono, ci sono questi rischi. Quindi da questo lato il rischio teorico c'è, che qualcuno che si è esercitato lì voglia tornare qui, piuttosto che se ci sono, come dire, se c'è un reticolo di cellule dormienti o di retrovia logistico, francamente non lo so, e probabilmente se lo sanno i carabinieri dell'intelligence lo tengono segreto per monitorare. Però sicuramente nella propaganda del califfato quello che emerge da queste intercettazioni è proprio quello che il califfato dice, cioè conquistare Roma, colpire Roma, Parigi prima di Roma, lo slogan coniato per la strage del Bataclan. Per cui purtroppo nella loro visione c'è, e devo dire, senza creare allarmismo, che non è quello che voglio, che basta ricordare che l'ultima strage di Bruxelles l'hanno fatta in tre. Già. Quindi purtroppo la forza militare di queste azioni non si deve basare necessariamente su centinaia di persone, bastano pochi e determinati. Grazie di questa analisi. Intanto, naturalmente, non è che basta incrociare le dita, sembra che la nostra intelligence sia abbastanza allenata, anche si dice sempre per il terrorismo di destra e di sinistra, rosso e nero, che c'è stato in Italia, però è chiaramente la vigilanza, il rischio zero non può garantirsi. Grazie intanto Gianni Cipriani. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme e guardavo i vostri messaggi che adesso scorrono velocissimi, vediamo se riesco a fermarli, c'è qualcosa con il computer, ecco, intanto sapete la tecnologia, Roberta Giordano sempre con voi, anche quando è in difficoltà tra Twitter, il 349-238-6666, i messaggi e la pagina Facebook di Effetto Notte. Stavo guardando questo messaggio: se Salvini, dice Roberto da Modena, non avesse tirato in ballo un presunto patto tra Berlusconi e Renzi per le televisioni, secondo me è facile che avrebbe optato per la Meloni, ma non so Roberto se sia proprio stato questo che abbia fatto scattare questa decisione. In ogni caso vi ricordo le notizie più importanti, poi passiamo a un altro spazio. Berlusconi punta su Marchini a Roma, terremoto quindi nel centrodestra, rabbia di Salvini e Meloni, i centristi dicono è una decisione epocale. È stata scoperta una rete di jihad, della jihad tra Lombardia e Piemonte, ne abbiamo appena parlato, nel mirino anche il Vaticano e l'ambasciata di Israele, quindi 6 arresti tra Piemonte e Lombardia. E poi il Brennero, oggi c'è stato questo vertice tra il ministro dell'interno italiano Alfano e quello austriaco in cui pare che ci sia stata una mediazione. L'Austria dice noi non vogliamo fare il muro, solo controlli e rispettiamo le regole europee. Mattarella che ha lanciato un appello a un'alleanza forte contro la corruzione in Italia. E poi scuola, il concorsone al via, voci di caos e poi anche in previsione uno sciopero generale degli insegnanti. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Lorenzo. Cognome: Fontana. Età: 36. Nato a Verona. Eletto in nel collegio nord-est del Parlamento europeo. Con quanti voti? Circa 27.000. Partito politico: Lega Nord. Gruppo politico: Europa delle Nazioni e delle Libertà. Segni particolari: Amo la cultura e i libri. Quante lingue parla? Ne parlo 3, italiano, inglese, spagnolo e sto imparando francese e tedesco. Competenze europee in 10 parole. Mi occupo di immigrazione e libertà civili e in particolar modo del sostegno alle famiglie e del problema demografico. Benvenuto nella U-Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Immigrazione, banco di prova per l'Unione Europea. Come ne esce? E purtroppo questa Unione Europea non riuscirà ad uscirne perché non riesce ad avere delle politiche adeguate. In particolar modo non capisce il fatto che bisogna tutelare le frontiere esterne facendo dei controlli adeguati e seri sulle persone che entrano all'interno dell'Unione Europea. Schengen, quindi, tra frontiere esterne e frontiere interne. Esattamente, e il problema di Schengen è che sta crollando perché le frontiere esterne non sono adeguatamente controllate. Purtroppo, non essendoci le frontiere esterne, è evidente che si ripristinano quelle interne. Blocco del Brennero sì o no? Mi piacerebbe che fosse un no, ma realisticamente è un sì, proprio perché da una parte l'Unione Europea non riesce a controllare le frontiere e dall'altra purtroppo anche l'Italia ci mette del suo avendo una gestione abbastanza strana del problema migratorio. Accordo tra Unione Europea e Turchia, pro e contro? Contro, soprattutto perché la Turchia userà come ricatto la questione migratoria per chiedere sempre più soldi e per chiedere vantaggi al fine di poter entrare all'interno dell'Unione Europea con tutte le gravi conseguenze che questo comporterà. Pro, nessuno? Pro l'accordo fra l'Unione Europea e la Turchia? Beh, direi che dal punto di vista italiano assolutamente no, perché visto che poi finirà e si interrompe la rotta balcanica, la maggior parte dei migranti arriveranno in Italia, quindi insomma direi che di pro non ce ne sono per noi. Lotta al terrorismo. Tutti per uno, uno per tutti o meglio soli che mal accompagnati? Tutti per uno nel momento in cui però tutti capiscono qual è il vero problema. Perché se noi neghiamo il fatto che ci sia una parte di Islam, una parte, non tutto evidentemente, che però vuole assolutamente, che ci odia e vuole un'invasione dell'Europa e non solo una persecuzione delle minoranze cristiane nel resto del mondo, allora è meglio essere soli, perché bisogna capire chi abbiamo di fronte e capire qual è il nemico. Perché si è candidato? Mi sono candidato perché spero di poter lasciare un futuro migliore ai nostri figli. Cosa ha pensato quando è stato eletto? Ho pensato che adesso iniziava la battaglia. Un sogno nel cassetto. Di vedere un giorno l'Europa tornare a essere basata soprattutto sulla famiglia e soprattutto sui valori cristiani. Come racconterà l'Europa alla sua bambina? Che c'era un bellissimo sogno che è diventato un incubo e che noi poi, grazie ai nostri sforzi, siamo riusciti a far tornare, speriamo, una bella realtà. YouZone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso parliamo di scuola, perché oggi è partito il concorsone per gli aspiranti professori di ruolo. È partito alle 8 di questa mattina, chiuderà i battenti il 31 maggio per quanto riguarda le prove scritte. In estate poi chi le avrà superate avrà gli orali. Ci sono gli oltre 165.000 professori precari in corsa per aggiudicarsi una delle 63.700 cattedre a disposizione in 3 anni, con i primi professori di ruolo già da settembre. Ma come è cominciata questa corsa? Che prima giornata è stata questa? Lo chiediamo alla nostra Piera Ceci. Ciao Piera. Buonasera Roberta, non è facilissimo raccontare una giornata come quella di oggi. Da un lato infatti c'è il Ministero dell'Istruzione che dice che tutto è andato bene, dall'altro il popolo del web, il popolo dei no concorso che segnala irregolarità in molte delle sedi in cui si è tenuta la prova. E non è facile dire chi abbia ragione, nel senso che ha ragione il Ministero dell'Istruzione a dire che la macchina organizzativa ha retto. In effetti i 1900 candidati previsti hanno sostenuto il primo scritto. Oggi in particolare è stata la volta di chi vuole insegnare storia dell'arte, arte, scienze, tecnologie e tecniche agrarie, laboratori di liuteria. 1900 dei 165.000 che hanno presentato domande e che andranno avanti a fare prove scritte fino al 31 maggio, poi chi passerà lo scritto farà l'orale. L'intento è di avere i 63.000 nuovi assunti in cattedra già a settembre, ma i tempi sono strettissimi. Partiamo allora da qui, dalle interviste di Edoardo Sirignano raccolte a Milano alla fine dello scritto di questa mattina. Ma la prova spero sia andata bene. Le domande sono un po' diverse da quelle che erano state indicate nei siti che si occupano, che sono occupati del concorso. Ma spero bene che sia andata bene, insomma, abbastanza complessa, soprattutto dal punto di vista del tempo, che era veramente poco per una prova fatta comunque al computer. Dunque è stata una prova molto faticosa, perché arriviamo dopo un percorso di formazione che dura da anni e ci troviamo a dover rischiare tutto in un gioco a premi. Seccati dunque per dover essere valutati per l'ennesima volta, ma insomma non ci hanno segnalato irregolarità i nostri intervistati. Irregolarità che invece vengono segnalate, come dicevo, sul web. In effetti i carabinieri sono intervenuti per esempio a Roma e Palermo, chiamati da docenti che prima di sostenere il concorso hanno preteso il rispetto di tutte le regole. E come dargli torto? Per esempio non esistono le griglie di valutazione, i commissari sono stati nominati all'ultimo momento. Insomma, come sempre nella scuola, prevedibile immaginare che ci saranno molti ricorsi. In tutto questo, con un tempismo un po' bizzarro, proprio nel giorno del concorso, i sindacati della scuola hanno annunciato lo sciopero generale per lunedì 23 maggio, come ci ha spiegato Pino Turi, segretario generale Will Scuola. Ci sono da modificare la 107, il bonus ai docenti che va contrattualizzato e la scelta diretta da parte del dirigente e dei docenti, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Poi dopodiché c'è l'apertura del contratto nazionale. Mi pare che ci siano tutti gli elementi per poter dire che la scuola ha esaurito la pazienza. Non è uno dei motivi dello sciopero, ma i sindacati contestano anche il concorso perché dicono che decine di migliaia di docenti sono rimasti fuori. Si tratta soprattutto di laureati non abilitati che però sono in cattedra da anni e che saranno ancora impiegati a tempo determinato perché anche questo concorso non assicurerà la totale copertura delle cattedre. La risposta del ministro Giannini: trovo singolare proclamare uno sciopero contro un governo che assume e annunciarlo proprio nel giorno in cui parte un concorso da 63.000 posti, ha detto il ministro Giannini, che ha ricordato come il governo investa sull'istruzione 3 miliardi di euro in più all'anno. A te, Roberta. Grazie a Pier Ceci, la nostra Pier Ceci. Adesso continuo a guardare i vostri messaggi al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, e ancora sulla scelta di Berlusconi oggi su Marchini, abbandonando Bertolaso. Intanto ringrazio Giovanni che parla di sbuffetto. Dice Roberto, no, questo l'avevo letto, questo di Roberto, Marchini è l'unico candidato credibile, pulito, per bene, brava persona, invidiata a sinistra e nell'ex destra distrutta dal mediocre Gianfranco Fini. Berlusca capito tutto e ha scelto Marchini, che dalla sua parte ha soltanto la gente. È poco? Io penso di no, dice Renato da Roma. E poi invece un altro ascoltatore: secondo me Berlusconi con questa mossa fa perdere Marchini, che invece era un buon candidato. Bene, queste le vostre posizioni, noi ci risentiamo giusto alle 22.